Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, 9-8 minuti, ci siamo, in diretta dagli studi. Santo, questa volta Donnarumma la para, respinge Gigio Donnarumma, ha sbagliato un calcio di rigore. Grazie Alpino, sì, una partita che abbiamo vinto con nonchalance per entrare in Europa League, veramente sul velluto, grazie, ma dobbiamo stare tranquilli. Attenzione signori, perché oggi è una puntata molto particolare, siamo in diretta fino alle 11, ma fino alle 10 abbiamo un grande regalo e lo ringraziamo perché è venuto qui a... Lui pensa a parlare, in realtà noi lo vogliamo semplicemente strappare dalla TV per farlo tornare al suo vecchio grande amore, la radio. Ma è tornato con noi Giovanni Floris. Buongiorno, ma magari, magari. Vedi, dico già è tornato perché è il ritorno alla radio di Giovanni Floris. Eccoci qua, direttamente dagli studi di martedì. È venuto il venerdì a Radio 24. Pensa quando eravate concorrenti e invece vedi, si arriva qua. Vedi, si arriva qua. Qui negli studi di Radio 24 Giovanni Floris starà con noi fino alle 10. Abbiamo tanti temi da affrontare, se volete con voi all'800 24 0024. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri audio, i vostri messaggi. Caro Alpino, che sei in regia, vai. I will not be easy, and it will not be easy. Caro Giovanni, noi abbiamo utilizzato da quest'anno questa sigla con il Premier Conte, avrai riconosciuto la voce che così un po' in un inglese incerto, secondo me dimostra l'incertezza dei tempi che stiamo vivendo. Non sarà facile. Non sarà facile. Non sarà facile, visto che i contagi aumentano. Io sono dell'idea, ma sono una assolutamente una pecora nera in questo, che forse dare tutti i giorni il bollettino, lo dicono anche molti medici, dà un'istantanea che non è una vera fotografia e forse fa crescere anche un po' di ansia, di preoccupazione. Tu come la vedi che è il polso dell'Italia, insomma, ogni settimana? Come sempre i dati si fanno parlare, no? Di per sé non dicono nulla, quindi se si dà quest'idea dell'emergenza che cresce, paura che si voglia dare l'idea dell'emergenza che cresce, quindi temo che stia crescendo l'emergenza. Cioè, alla fine bisogna starci attenti, hai visto? Sì. Trump? Sì, sì. Non guarda in faccia a nessuno questo virus. Trump è positivo, qualcuno ha fatto notare che poi tutti coloro che capi di Stato, capi di governo che hanno un po' sminuito questa problematica da Bolsonaro a Johnson, adesso Trump, alla fine il virus non guarda in faccia a nessuno. Il virus vendicatore, no? Drammaticamente non guarda in faccia a nessuno, può prendere tutti, l'hai visto dalle persone più protette, a me ha colpito Silvio Berlusconi, sì. No? Che addirittura era andato in Francia, lo prendi uguale, prende tutti, ecco, bisogna stare attenti. C'è anche questa immagine che ha dato ieri il ministro della Salute Speranza, e cioè del dobbiamo stare con il coltello tra i denti per 7 mesi, immagino che 7 mesi sia l'auspicio per l'arrivo di un vaccino o di una qualche cura, di un primo vaccino, e anche la sottosegretaria alla salute ha usato questa espressione, no? Scalfariana, resistere. Da uomo di comunicazione, secondo te sono immagini efficaci o rischiano anche queste di dare... Sono efficaci perché danno l'ansia e purtroppo temo che l'ansia debba far parte della nostra vita. Da qua, secondo me, aspettano il caldo più che l'arrivo del vaccino, no? Perché abbiamo visto che quando uno esce di casa, esce dai posti chiusi e si vive più all'aperto, la morsa scema. Temo che ci sia da stare attenti, non tanto per noi quanto per le persone anziane che ci stanno vicino. Sì. Ecco. Allora, con Giovanni Floris oggi vogliamo parlare di noi. Quando dico noi, noi e loro. Quando dico noi, diciamo noi genitori, padri, madri. Giovanni, credo che tu sia del 68, io sono 67, del 67, ma del 27, ecco, dicembre, quindi pelo. Allora 68, facciamo anno abbastanza importante nella storia italiana. Io sono del 70, siamo padri entrambi. ci sono tanti genitori all'ascolto, ci sono tanti figli di cui i genitori parlano tutti i giorni, li guardano a volte come se fosse un documentario di Piero Angela, guardare degli animali strani. Io ti racconto, stamattina portavo mia figlia a scuola, le ho detto: ma sai perché succede questa cosa? Perché? E le ho spiegato per un minuto, alla fine gli ho detto: hai capito? Papà, sto ascoltando la musica in cuffia! Sarebbe stato inutile dirle che era lei che mi aveva chiesto il perché. Quanti anni ha? 14. Vabbè, siamo nella stessa barca. Allora, Giovanni Floris ha scritto questo libro che è fresco di stampa per Solferino, L'alleanza, noi e i nostri figli, dalla guerra tra i mondi al patto per crescere. È un saggio molto interessante perché racconta appunto di noi e loro e di come forse sia il momento di fare una vera alleanza. Intanto ti chiedo, un'alleanza sociale, psicologica, umana, economica. Partiamo dall'economica, secondo economica. Me. Guarda, io quando ero ragazzino sognavo di fare il giornalista per vedere posti nuovi, girare il mondo. Col tempo mi sono reso conto che tu, il vero mondo misterioso è la testa degli altri, no? Questa è un'inchiesta sulle teste, sui modi di pensare, di un mondo che è completamente parallelo al nostro. Tu parlavi con tua figlia, lei intanto ascoltava la musica. Sono generazioni, padri e figli, completamente divise, si sono costruite degli universi a parte. Questo perché? Fondamentalmente io guardo sempre la struttura, no? La struttura fa sì che noi ci stiamo, siamo un paese di anziani, in cui votano solo gli anziani, in cui i politici inseguono i desideri degli anziani perché da loro vengono votati. Siamo un paese che sogna la pensione, che la più grande battaglia di questi ultimi anni, legislatura dopo legislatura, è stata avvicinare il momento in cui torni a casa e ti metti a riposare. Non è un grande sogno, non è un'utopia che trascina un paese, una cosa del genere. In questo mondo in cui noi ci mangiamo tutte le risorse, qual è il vero dramma? È che i ragazzi, le generazioni successive, iniziano ad accettarlo. Iniziano ad accettarlo perché c'è un sondaggio che riporto di Nando Pagnoncelli, terrificante, in cui si chiede dai 15 ai 35 sì. anni, gli si domanda: se lo Stato spendesse meno per le pensioni e più per voi giovani, sareste contenti? Loro dicono no. No. Perché se vanno certo. a nonno i soldi, nonno qualcosa me li dà, se vanno allo Stato scompaiono. E questo è terribile, il che significa che c'è una sfiducia nelle istituzioni, anche da parte dei giovani comincia a introiettarsi questa sfiducia, e un paese che non crede ai giovani veramente sarà una banalità, vuol dire che è un paese che non crede, non punta al proprio futuro. È ricambiato dai giovani che non credono in lui. Non credono in lui. Forse siamo anche in una fase in cui poi i nonni si stanno anche mangiando quello che potranno lasciare alle nuove generazioni. Questo Guarda, è il grande siamo in un rischio. Paradosso, perché noi abbiamo i nonni che hanno più soldi dei genitori e dei figli, ma i nonni, avendo più soldi, devono mantenere i genitori e i figli. Sì. Quindi quando uno finirà dice diamo questo. Tutti i soldi agli anziani, non è che questi se la spassino, devono pure mantenere le famiglie. E tant'è che noi abbiamo la fuga dei cervelli dei ragazzi, che noi chiamiamo fuga dei cervelli perché li riteniamo tutti nobili, in realtà sono solo ragazzi che vanno a fare una splendida esperienza all'estero. Il problema loro è che non possono ritornare perché verrebbero a stare peggio. Ma abbiamo anche i nonni che vanno in Portogallo, in Tunisia. Siamo riusciti a costruire un sistema in cui scappano tutti, giovani e vecchi. Un sistema, io l'ho letto il tuo saggio, molto interessante, in cui il tema dell'egoismo è un tema che via via ritorna, ma che, per carità, l'egoismo, il pensare a se stessi, al proprio benessere, non è di per sé una cosa sempre negativa, però è quell'individualismo che fa dire lasciateli nella mia famiglia i soldi, perché un po' un domani mi arriverà. Almeno qualcosa arriverà. Guarda, in questo c'è un problema forse culturale, no? Tu hai detto tu sei del 70, io del sì. 67, noi ci siamo formati tutti negli anni 80. Questi anni 80 che ora addirittura i politici rimpiangono, no? Io ho avuto Salvini in trasmissione, diceva negli anni certo, 80 sì che si comprava casa, si viaggiava, e no, tutti i soldi presi in prestito sì, che ora invece di debito pubblico sì, invece di ridarli, noi ora stiamo spostando ulteriormente il debito sui nostri figli, il cerino gira ma qualcuno si scotterà le mani. Comunque, io ho sempre vantato della nostra generazione il fatto che si fosse liberata dall'ideologia, avesse scoperto l'economia, avesse scoperto le variabili indipendenti nella nostra vita, no? Che non tutto fosse politica. Forse adesso però abbiamo un po' esagerato. Sì. Forse adesso, a forza di dimenticare le ideologie, ci siamo un po' dimenticati gli ideali, a forza di rivalutare l'individuo siamo diventati egoisti. E questo, in qualche modo, nelle nostre famiglie i figli lo assorbono. Sì. Solo che mentre noi siamo egoisti che ci spendiamo le cose che abbiamo preso, loro iniziano a costruirsi un mondo completamente separato dal nostro, fatto di linguaggi, modelli, cultura, simboli, parole, che noi proprio non capiamo non più. Non capiamo, infatti tu poi parli anche, poi lo vedremo nel saggio, dei social, di questi terribili di cose, TikTok, Facebook, Facebook magari lo conosciamo un po' tutti quanti. Però, caro Giovanni Floris, alle 9:18 minuti, 800 24 00 24, poi io cito statistica di due giorni fa, l'Eurostat dice che noi siamo il paese in cui i giovani escono dalla famiglia più tardi possibile, circa 30 anni, in Svezia 17, ci sono sempre queste statistiche che chi ci gliele paga le bollette, chi gli paga l'affitto, infatti, come fanno? Dove vanno? A questo proposito vogliamo salutare la professoressa Elsa Fornero. Buongiorno, professoressa. Eccoci. Buongiorno. Ex ministro. Mi fa molto piacere sentire Floris. Che bella sorpresa. In una trasmissione diversa. Vede, l'abbiamo riportato alla radio. Lui adesso lo annuncerà attorno alle 10, abbandona la TV per tornare. Questa è la vera notizia, ma ce che la teniamo bello. Come chicca per la fine della per la fine della carriera televisiva. Allora, professoressa Fornero, lei qualche giorno fa sulla stampa ha scritto di questo dicendo, lo riassumo così: cari italiani, guardate che con il recovery fund arrivano dei bei soldini, no? Allora, sì. Che cosa facciamo però per i giovani o per i bambini, visto che tre quarti della spesa sociale è destinata, non so se dico giustamente o no, lo dica lei, alle persone anziane? Siamo anche una società che demograficamente, insomma, abbiamo un'età media molto alta. Che, ecco, lo chiediamo a lei, e che cosa bisognerebbe fare per i giovani di concreto? Ci dica qualcosa di concreto per emancipare meglio i giovani. L'idea semplice è di ridisegnare un po' il welfare, considerando che quello che noi chiamiamo sicurezza sociale, che abbiamo interpretato essenzialmente come sicurezza o adeguatezza dei redditi nell'età anziana, in realtà deve cominciare dall'inizio della vita e deve cominciare dalle diseguaglianze che fin dalla nascita sono ampie tra bambini che nascono in famiglie fortunate e bambini che nascono invece in famiglie molto sfortunate. Una società dinamica dà chance a tutti. È compito dello Stato non ridurre le diseguaglianze sempre cercando dei trasferimenti, come si è fatto anche in questi anni, ma cercando di dare, di livellare il terreno di gioco, come si dice. Quindi per me la risposta è molto chiara. Facciamo delle proiezioni di spesa, cerchiamo di tenere la spesa pensionistica, che già è stata aumentata e lo sarà per effetto di quota 100, al livello in cui l'abbiamo, quindi non facciamo nessun aumento sulla spesa pensionistica, si possono fare aggiustamenti sull'ape social e va bene, ma invece spostiamo delle risorse, mettiamo delle risorse sui bambini e anche sull'età adulta, quando purtroppo nella vita delle persone si presenta disoccupazione. Sì. E poi c'è il tema delle donne che devono poter lavorare. E invece in Italia questo è una cosa di cui ci si ricorda ogni tanto, ma di concreto si fa molto poco. Si fa poco, per aiutare anche l'emancipazione economica delle donne che poi insomma, guardi, devono sempre più... È proprio un piano di ristrutturazione del web. Ma lei come lo vede concretamente? Sono, non so, assegni familiari, il quoziente familiare? Sì, allora c'è la questione del sistema fiscale, l'assegno unico per la famiglia è un passo. Ho anche citato la proposta che era stata fatta a suo tempo da Ichino e Alesina, sì. E questa è una proposta che magari presenta molti problemi, ma che vale la pena di discutere, quella di tassare meno il lavoro femminile, per cui a parità di reddito la donna ha un vantaggio netto sotto il profilo della minore tassazione che paga, e questo la spinge a lavorare di più, a cercare più intensamente lavoro. Poi ci vogliono i servizi per la cura, perché l'idea in Italia è sempre che ai servizi ci pensa la donna, quindi a tirare su i figli, se si può ricorrere alle nonne mandate in pensione sì. anche in giovane età, va bene. Se no, la donna deve stare a casa. Sì, qui si intercetta il tema, vorrei tornare a Giovanni Floris, visto che ne scrive, ne parla, cita spesso il professor Rosina, demografo, il tema anche dei figli, no? Sì. Non si fanno figli. Per carità, quando si affronta questo tema, bisogna sempre dire che non si può generalizzare. Ci sono persone che li vorrebbero fare, ma non riescono. Secondo me il tema, infatti, è che non se ne fanno quanti si vorrebbero. Cioè, diciamo, io non ho mai legato al benessere economico con la volontà di fare figli, no? Io avevo mio padre, erano 7 fratelli, e mia nonna gli lasciava a Natale un mandarino da dividersi sì. come regalo. Forse oggi però culturalmente non siamo più propensi a questo tipo, diciamo, di discorso preventivo. Implica, no? Così tante rinunce che addirittura, fatta una relazione tra i tempi differenti che viviamo, sono delle rinunce che pesano di più di quanto non pesassero nel dopoguerra. Una, come diceva bene la professoressa, che dovrebbe fare il ministro, visto che che quadro che fa. Come diceva bene la professoressa, è difficile per una donna scegliere di fare un figlio. È una scelta talmente difficile perché manca tutta la struttura intorno, perché manca che la rinuncia, possibilità, che rinuncia semplicemente. Rinuncia semplicemente rinuncia. L'idea di rinunciare a fare figli invecchia il paese. L'idea di rinunciare a fare figli e intanto voler chiudere i porti alle persone che vengono qua invece con l'idea di fare figli è un'idea per cui proprio si rinuncia a rinnovare un paese nel fronte delle idee, del lavoro, dei sogni, degli ideali, della capacità di... Tutto questo è una rinuncia che pesa. A questo punto uno fa un figlio e dice: guarda, ne faccio solo uno, ma questo mi deve venire davvero bene. E allora inizia a caricarlo di aspettative, a caricarlo di progetti, a fare dei progetti, come dicevamo prima, tutti individuali. Questo me lo faccio studiare nella scuola e mi raccomando, non mettetegli voti bassi, perché questo è un campione, questo ve lo sto affidando per qualche mese. Poi lo mando all'estero e se la scuola o l'università in Italia ha dei problemi non mi interessa, perché questo figlio che ho fatto a costo di tanti sacrifici, su cui punto tutto, deve avere un futuro d'oro. Io, professoressa Fornero, lei scrive appunto in questo editoriale sulla Stampa qualche giorno fa: non si comprende perché lo Stato debba proporsi di tutelare le persone nella vecchiaia molto più di quanto non le tuteli negli anni dell'infanzia e della gioventù. La risposta, forse tra le righe e tra le pieghe un po', Giovanni Floris ce l'ha detta prima, è una questione di politica che si rivolge soprattutto ad elettori, e gli elettori sono soprattutto anziani? Non solo, ovviamente, ma in una parte è sicuramente la motivazione elettorale, quindi le politiche di breve termine, alla ricerca del consenso di breve termine, tengono ovviamente conto della distribuzione per età degli elettori. I giovani contano molto poco o per niente, quelli appena nati proprio per niente, e quindi questo vuol dire che le politiche sono a favore della classe di età anziana, ed è veramente questo lo spostamento che va fatto. I bambini poveri, i bambini che sono, a cui neghiamo il futuro, e questo, noi ci lamentiamo sempre delle diseguaglianze che sono aumentate anche nel nostro paese, non come in altri paesi, perché poi accanto a queste storture del welfare pubblico c'è poi quel welfare familiare di cui avete anche parlato prima, e per cui i giovani che dicono no, non è giusto ridurre la spesa pensionistica, fondamentalmente non capiscono, non hanno la consapevolezza del debito che verrà a gravare sulle loro spalle. Questo io lo so perché parlo molto spesso con i giovani, comprendere questo patto implicito tra generazioni e lo sbilanciamento che lo ha caratterizzato negli anni passati e ancora oggi è un concetto difficile da capire. Quindi loro dicono no perché vedono l'aiuto che la nonna, magari rinunciando a qualcosa da loro, sì. e pensano: ma se sì. riducono la pensione, io come sì. vivo? Ma l'errore è proprio lì: come sì, vivo? Come tu vivo. Devi vivere. Dovrebbe vivere. Sì, chiaro. Potendo studiare bene, avendo scuole, per esempio un piano, c'era stato il famoso piano Renzi, tutte le scuole messe diciamo in condizione di ospitare i bambini anche in ambienti che sono gradevoli, invece di vederle che hanno i muri un po' cadenti e qualche volta si fa fatica a immaginare come i bambini possano vivere anche in maniera gioiosa all'interno di queste scuole, parlo soprattutto di quelle di periferia. C'è da dire, ma Floris, che anche in Svezia, in Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Estonia, leggo le nazioni dalle quali i giovani si emancipano, nelle quali i giovani si emancipano prima, questo secondo l'Eurostat, anche lì votano i giovani, voglio dire, cioè o votano, forse sono più interessati gli anziani alla politica. Guarda, ci sono anche lì i giovani, però, no? Sono due facce della medaglia. Infatti io parlo di alleanza perché bisogna mettersi d'accordo noi e loro. Anche loro hanno dei difetti. Quando noi con la professoressa Fornero, in particolare a Di Martedì, parliamo di pensioni, di futuro dei giovani, noi, come sai, abbiamo gli ascolti minuto per minuto, certo, no? E classifichiamo il pubblico minuto per minuto. Se parliamo di disoccupazione giovanile, sono gli anziani che ci guardano perché temono per i nipoti. Se parliamo di pensioni, sono gli anziani che guardano perché pensano alla loro pensione. Se parliamo di pensione dei giovani, sono gli anziani che guardano per vedere per i giovani, avvisare poi i giovani. Per avvisare i giovani. Allora, loro non ci guardano mai, non è una colpa non guardare Di Martedì, però qual è il punto? Che la visione del futuro che ha un giovane di se stesso è estremamente legato al futuro di se stesso e basta. Manca una capacità di vedersi come soggetto collettivo. Che sul serio, su quello dovrebbero forse imparare dai nonni del 68. Sì, ma no, dovrebbero parlare. A un certo punto, non siamo stanchi, ma egoisti. Cioè, questa noi frase siamo egoisti, molto, e loro stanno diventando estremamente pratici nella soluzione del problema loro. Ti faccio un esempio. Noi parliamo del dramma dei ragazzi che sono costretti ad andare all'estero per lavorare. Innanzitutto parliamo di cervelli perché riteniamo che siano tutti premi Nobel che devono scappare. Non sono così. Sono dei ragazzi che, essendo dei ragazzi svegli, perché di certo sono generazioni molto, molto smart, vogliono fare un'esperienza all'estero. Vogliono fare un'esperienza all'estero perché allarga la mente, perché ti insegna tante cose, ti permette di vivere. Il loro problema è che non possono tornare in Italia perché all'estero si trovano meglio. Ma mentre noi pensiamo a loro in chiave di poverino e costretto ad andare fuori, loro non hanno più questa categoria. Nel loro sviluppo, nel futuro che vedono di se stessi, c'è anche l'andare all'estero come un'evoluzione naturale, certo, dell'essere italiano. Allora, questa è una trasformazione talmente importante che dovrebbe farci riflettere. Ora, loro stanno fondamentalmente cercando una soluzione individuale. Ognuno di loro ha un problema che invece è collettivo. Ma come collettivo non si mobilitano. Sono tante monadi stipate. Magari riescono a andare tutti in piazza per i problemi del pianeta, dell'ambiente, ma subito dopo si dispersono. E anche se gli parli dei problemi dell'ambiente, loro sono convinti che nella gestione individuale del problema, gettare l'immondizia differenziata, risolvono così il problema del pianeta. Non hanno una visione collettiva. Di se stessi. Beh, però tu racconti che forse sono un po' lo specchio della mancanza di visione collettiva che noi non siamo riusciti a dare. Forse è colpa di noi degli anni 80. Ci siamo liberati delle ideologie e degli ideali insieme. Sì. Forse, diciamo, io poi gli anni 80 li ho sempre difesi perché li trattavano talmente male quelli degli anni 70 che io dicevo, guardate che noi abbiamo un sacco... Quelli che arrivano prima o dopo criticano. Noi abbiamo un sacco di qualità. Adesso mi sto domandando se erano così tante queste qualità. Ecco. Noi, professoressa Fornero, la ringraziamo e la salutiamo. Grazie per essere stata qui grazie con noi. Grazie a voi. Dobbiamo andare. Grazie. Buon lavoro, professoressa. A tutti. Buongiorno. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Poi ritorniamo con Giovanni Floris, il suo libro Alleanza. A un certo punto parla tutto del capitolo dei social. Io non so con quale coraggio tu abbia anche tentato di affrontare l'utilizzo, noi gli adolescenti che comunicano, vivono me in li questi... sono fatti spiegare perché sei riuscito, quindi hai avuto un'interazione. Guarda, dico al volo senza rubare spazio alla pubblicità, sono arrivato in un gruppo di ragazzini, ho detto mi spiegate cos'è TikTok, una mamma li ha scavalcati, ha iniziato a dirmi guarda TikTok è questo. Il figlio gli ha tirato la manica e ha detto mamma se sai cos'è mi vergogno. Ecco, vedi perché di base tendono proprio a escluderti, cioè vogliono. Ma hanno ragione. Ma certo, ovviamente. Dai, pubblicità, rientriamo tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Carissimi, i dati li danno tutti i giorni proprio per creare panico, per creare paura, perché quando a giugno qualcuno ha detto il virus ha perso forza, perde forza, e si è creato il liberi tutti con i risultati che che si vedono. E quindi adesso si ritorna a creare panico, a creare paura. Uè, Milan del Milan, qui Luca dell'Inter. Ma ieri cos'era? Calcio o pallavolo, visto il risultato? Ciao, un abbraccio, ti voglio bene lo stesso. L'anno dell'Inter, tranquillo, caro Luca, anche Giovanni Flores me lo diceva, ma quest'anno proprio l'Inter vince tutti a mani voi, basse. Di tutti voi di Milano. È l'anno dell'Inter, si sa. Oh, tra l'altro, vedi, per fare un discorso un po' più profondo, non abbiamo ricordato la vicenda del Ciusi alla Fornero, no? Prima ne parlavo con Giovanni Flores. Io dico che secondo me in un paese, l'Italia, in cui siamo abituati a ragionare poco in profondità, ma a volere i titoli, ecco, forse quell'uscita da ministro non fu, dal punto di vista comunicativo, la più felice, perché poi la gente... Beh, la professoressa è abituata a parlare, era abituata, adesso è molto più, diciamo... Politica, molto adesso più è più politica. Pelo sullo stomaco, capito cosa si paga, però lei era all'epoca abituata a parlare con Begni, no? Certo. Sui giornali hanno tutt'altro effetto le parole. Eh sì, sì, i titoli ti attaccano lì. Allora, dicevamo, quindi tu sei entrato nel mondo dei social. Prima sentiamo un ascoltatore che ci chiama Duccio da Siena. Buongiorno Duccio, eccoci. Buongiorno Mila, sì. Buongiorno Flori. Buongiorno. Ti ascolto sempre volentieri. Grazie, prego. Posso? Prego. Dunque, no, torno un attimo indietro rispetto all'argomento che state affrontando ora. Ho cominciato ad ascoltare, sì, quando Flores parlava di quello che lui definiva un po', tra virgolette, il sogno degli italiani, pensare alla pensione, al momento di tornare a casa, in sostanza, ora semplifico un po', mettersi in poltrona. Ne usciva, ne esce, sono d'accordo quasi in toto con quello che diceva, ne esce però un'immagine di gente un po' pantofolaia, e di questa immagine, diciamo, non tiene conto invece di tutta una parte, un aspetto di noi italiani che è molto invece particolare, tutto il mondo del volontariato. Cioè, in realtà tutti noi, io ora mi occupo di un'associazione qui a Siena che cerca di valorizzare le mura, per dire, quindi una cosa anche molto particolare. Però il volontariato è diffusissimo da noi, il volontariato è sociale, impegna tutti, quindi sì, c'è la voglia di tornare a casa, ma, di staccare, ma per fare altro. No, ma è chiaro, no, era solo una previsione. No, ma è giustissimo, è giusto. Quello che nell'alleanza io cerco di dire, guardi, io diciamo... Parlo di me, io voglio andare in pensione per aprire una trattoria, cioè quindi diciamo non do per aspetto di arrivare a quel momento per allenare i ragazzini a ma calcio. Ma stai in cucina poi o... Io sto anche in cucina, cucinare, non sono bravissimo. Però diciamo il mio sogno, io ho due sogni, aprire la trattoria e allenare le squadre di dilettanti a calcio. Vabbè. Quindi diciamo io... perseguo, ora lavoro, mi piace, ci sto, poi dopo ho in mente un altro mondo fatto di altre cose, come giustamente diceva Duccio, il volontariato ad esempio. E il problema è che i sogni di una generazione comandino tutto il paese. Esatto. Cioè ci dovrebbero essere tanti sogni di diverse generazioni tutti insieme rappresentati nella stanza dei bottoni, mentre qua nella stanza dei bottoni, anche se arrivano persone più giovani, perché il ricambio dei politici c'è stato, no? I 5 Stelle, la Lega, il PD, tutti hanno rinnovato i propri quadri, ma sempre pensano agli interessi solo di chi vuole andare in pensione. Sì. Che è legittimo sognare di fare una vita successiva a quella che si fa sul mondo lavorativo, ma non può essere il traino del paese. No, ma poi io dico, se Duccio mi permette, c'è sempre un po' l'errore, quando si scrive un saggio come ha fatto Giovanni Flores si fa una fotografia che guarda un po' in generale, in base alle statistiche, ai sondaggi. Poi non si può andare a calare tutto nei singoli Duccio che in maniera meritoria. Diciamo lui parliamo del volontariato. Io faccio alla fine, appunto, dopo aver analizzato le difficoltà del paese, cerco di uscirne con una modesta proposta. I giovani devono fare volontariato, dal mio punto di vista, obbligatorio. Come io ho fatto il militare, mi è piaciuto tantissimo, ho avuto un'esperienza molto profonda, ho conosciuto tanti amici. Il vecchio servizio civile, insomma. Devono fare il servizio civile obbligatorio. Questo avvicinerebbe a una dimensione collettiva, al vedersi come soggetto collettivo, come soggetto politico, come lobby, avvicinerebbe i giovani a un sapore di paese, di Stato. Mm-hmm. Io penso che se facessero questa esperienza inizierebbero a respirare quel mondo insieme magari a un percorso di 10 anni anche di scolarizzazione che li porti a votare a 16 anni. A votare a 16 anni sulla base dei propri interessi, dando valore a quella politica che al momento, ci sono dei sondaggi di Fagnoncelli spaventosi, al momento dà loro repulsa. Non dirla a me oggi, appunto, ho detto anche a mia figlia 14 anni, ma perché non prendi in mano il giornale? Perché no, non mi interessa. Punto, fine della discussione. Ma ci proverò la devi ancora. Mettere a te davanti alla TV il martedì sera alla 7. va bene, lo farò. Guarda qua che amico nostro, e credo anche tu abbiamo chiamato, Federico Taddia, il nostro Federico, ciao, eccoci qua. Allora, Federico. Ciao Alessandro, ciao Giovanni. Giovanni Floris cerca di entrare nella testa degli adolescenti in questo saggio, in questa alleanza che spera di lanciare, e a un certo punto analizza tutta la questione dei social, ricorda di quando Nuzzi disse proprio alla Fornero: lei non sa chi è Ciccio Gamer, e tra l'altro svela che non lo sapevano, nessuno lo sapeva lì a di martedì, io l'avrei saputo, avrei saputo rispondere a questa domanda, sempre per colpa di mio figlio. Che giovani sono questi che tu vedi, anche fai tante trasmissioni da padre nella nostra Radio 24, Federico? Sono i giovani che, insomma, che Giovanni nel suo libro racconta bene, no? Dove c'è uno spartiacque sicuramente, che è quello dei social. I ventenni guardano in maniera strana i quindicenni. I ventenni sono quelli che sono cresciuti e nati con internet, i quindicenni quelli che sono nati e cresciuti con i social. E c'è proprio una differenza sostanziale che nelle relazioni, nel come occupi i tempi, nel come anche acceleri i tempi, no? in tutte le direzioni. Ed è difficile generalizzare, è impossibile. Sono sicuramente giovani svegli, sono giovani che hanno più possibilità, sono giovani che si fanno assorbire tantissimo dai social. Ci sono anche tanti giovani fragili che i social li subiscono. Insomma, la cronaca di questi giorni in parte ce lo racconta, ma non solo. E sono giovani anche che usano i social per scappare da noi adulti, perché poi noi adulti li inseguiamo sui social, no? Abbiamo visto la migrazione di noi padri, noi madri, come su no? Facebook, per controllare i nostri figli, e loro sono andati via. Poi su Instagram adesso c'è qualche nostro coetaneo che si sperimenta anche su TikTok, ma l'idea è sempre quella di essere lì per cercare di vedere nel loro campo chi sono i nostri coetaneo. Qua, Giovanni Floris scrive nel libro che quando ha scoperto che i politici, anche alcuni politici, sono finiti su TikTok, ecco, in realtà adesso ci dice, si svela finalmente quello che ha pensato e che non ha mai potuto dire davanti alle telecamere. Esattamente, qui non ci vede nessuno, caro Floris, non ci ascolta, ho pensato, nessuno. Ma cosa dove come un vecchietto, ho pensato, ma dove andremo a finire? E loro ti avrebbero detto ok boomer. Ok, ecco. Boomer. Ecco, no, ma vi rendete conto che Trump, no? Nel momento in cui scende su TikTok, subito viene bevuto dai giovani che gli prenotano tutti i posti alla convention e lui arriva ed è da solo. Certo, perché si è messo in un'arena dove è perdente. Dobbiamo giocare nel mondo nostro. Andiamo con... Io ho fatto un percorso e poi mi sono fatto aiutare da Federico, perché io sui social non sono un granché. Ho mandato il primo tweet ieri dicendo è uscita l'alleanza e non so che fine abbia fatto, perché non so leggere le risposte. Ma diciamo. Come no? Vabbè, ma sei peggio di me. Ma cioè, molto io... peggio di te sicuramente. Pur non avendo il polso di quanto sei peggio tu, però diciamo mi sono fatto aiutare. Ma è un mondo assurdo. Allora, è un mondo, diciamo, che non è nostro, non è nel nostro DNA. Noi ci possiamo andare, lo possiamo utilizzare, però stiamo buoni, perché è un mondo loro. Sì. È un mondo che ha un significato, dei linguaggi, del DNA tutto completamente diverso da quello che pensiamo noi. Allora, Federico... ci hanno ospitato nel lockdown, sì. Ci hanno detto guardate venite in rete, esatto, ci hanno accolto per sbeffeggiarci in alcuni casi. Federico, ti devo salutare perché siamo come sempre di corsa, come sai, qui in radio c'è il traffico, ci raggiunge tra un attimo Leonardo Manera e andiamo a concludere la prima ora con Giovanni Floris, state con noi. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Cioè, noi abbiamo Ringraziamo anche la nostra Miriam Lucchetti che fa le scelte musicali spesso insieme a Lorenzo Nespoli, cioè capisci, ti accogliamo con Jimi Hendrix, mica pizza e fichi, mica pizza e fichi. Adeguata. Allora, devo dire che tantissimi dicono giusto il servizio civile, sì, ripristiniamo tutto questo, moltissimi ascoltatori. Un ascoltatore si spinge oltre e dice io toglierei il voto ai pensionati addirittura. Beh, no, anzi, lo sapete, ci sono delle proposte per dare il doppio voto ai genitori, sì, di minorenni, sì, così, sì, che pensino pure a loro. Assolutamente sbagliato. Due voti figli, si arriva a quota 60, non si arriva neanche più a quota 100. No, infatti. Allora, ma ci ha raggiunto il nostro Leonardo Manera. Buongiorno, ecco, buongiorno. Raggiunto per modo di dire, perché è arrivato Giovanni Floris e mi avete confinato nello studio piccolino. Sai che l'enorme Covid. C'è il Covid. Mia, no, dispiace, perché chiunque venga, vengo sempre confinato in uno studiolo piccolo. Sai che un dai po' tempi scrostato di Ballarò noi ti abbiamo lasciato tutto lo spazio. Tutto lo studio. Io mi ricordo le copertine di Manera a Ballarò erano un'esperienza psichedelica, no? È un genio. Infatti vogliamo dirlo, dice, è un genio, però diciamolo prima, ma era stupendo, era pazzo. E io sì, ho detto, completamente pazzo. Perché? Entrava, Ballarò diventava un altro posto. E io ho detto, ma perché era? È Leonardo Manera, è così. Vabbè. Ecco, adesso dovete solo mettere i muri di gomma nel mio studiolo e poi siamo a posto. Vai Leo, dici qualcosa. Allora, viviamo in tempi in cui molte coppie, che pure stanno insieme più o meno serenamente da anni, sono in dubbio se mettere al mondo dei figli oppure no. Arriva spesso il momento in cui si dice o ci sposiamo o ci lasciamo, e ci si sposa, dando vita a banchetti nuziali che durano più del matrimonio stesso. E poi da sposati o facciamo un figlio o ci lasciamo. Insomma, da un certo punto in avanti sono tutti dei palliativi per non lasciarsi. Finché a un certo punto, quando ti sei sposato e hai avuto figli, hai fatto un mutuo per la casa, si può serenamente dire bene, adesso è arrivato veramente il momento di lasciarci. Cioè praticamente quando in qualche modo è diventato tutto più difficile, forse per sostenere economicamente gli avvocati matrimonialisti. D'altra parte voglio anche dire che non sono negativo, disfattista o pessimista. In effetti negli ultimi anni ho sempre apprezzato la serenità di certe famiglie che vedo in pizzeria, dove ognuno dei componenti è concentrato ciascuno sul proprio smartphone, senza tensioni, senza rabbia, senza conflitto, li invidio. Ma quando si pensa se mettere al mondo un figlio, oltre ai motivi economici che sicuramente hanno importanza, ci si pone spesso il problema del mondo, della società nella quale i figli si troverebbero a dover crescere. Oltre ad avere il conforto dei social e del web, che possono sicuramente tenere impegnati i nostri figli qualora una babysitter fosse troppo onerosa, ecco, ci sono altri motivi per i quali vale la pena sicuramente di pensare a un'eventuale famiglia con figli nel nostro paese. Per esempio, uno di questi è che noi siamo in un momento di grande rilancio economico, grazie anche alla lotteria degli scontrini, che permetterà a ognuno di noi di avere una sicura prospettiva economica. Inoltre abbiamo un Presidente del Consiglio che ha dimostrato grande flessibilità e capacità di comprendere il presente, passando senza colpo ferire da una coalizione centrodestra a una centrosinistra e garantendo continuità a tutto il sistema. È un paese, il nostro, dove l'ascensore sociale funziona meglio che in qualunque altro posto del mondo. Lo dimostra Rocco Casalino, che è passato al Grande Fratello, all'ufficio stampa del Presidente del Consiglio. Quindi ai nostri figli potremo sempre dire dai che ce la puoi fare, come Rocco Casalino, o in caso di dotazioni particolari come l'altro Rocco, il più amato dalle donne e invidiato agli uomini. È un paese dove tutti si ingegnano e si danno da fare per scovare i malviventi, come fece Barbara D'Urso lodevolmente quando mandò le sue telecamere a riprendere il delinquente che, nonostante il coronavirus, inseguito dai droni, stava colpevolmente facendo una pericolosa, scellerata e solitaria passeggiata sulla spiaggia che avrebbe potuto essere più dannosa di mafia e camorra messe insieme. È un paese creativo come pochi, che ha saputo inventare espressioni nuove per cose vecchie, come pace fiscale al posto di condono, per darci l'impressione di aver finalmente risolto i problemi. È infine un paese dove, grazie al Navigator, tutti quelli che ne hanno bisogno potranno trovare un lavoro senza fretta, c'è tempo, fino alla pensione magari, e casomai senza rinunciare al conforto di qualche lavoro nero, senza che si sappia troppo in giro, perché si sa, una mano lava l'altra, e in tempi di coronavirus è fondamentale avere le mani pulite. capito che danni poi mi procura, caro Giovanni Floris, questo pazzo, pazzo, ho capito, pazzo, è rimasto manera. Uguale, sì. È un po' migliorato. È un po' migliorato. Io sai cosa invidio di Giovanni Floris? Che l'ho sempre notato fin da quando l'ho conosciuto tanti anni fa, che lui ne ha viste tutte, ha visto politici di ogni tipo, ma è sempre sorridente. Anche adesso appena arrivato l'ho visto sorridente, vuol dire che ha un ottimismo di fondo, sì, il contrario di quello che sono io. Poi non potevamo che incontrarci. Come ci scrive Lorenza, Giovanni Floris è molto meglio alla radio che alla TV. Fregato! Ma penso che Lorenza scherza. Dica che sono eccezionale, ovvio, in TV è straordinario, ovvio. Qua. Ma è ovvio, è ovvio. Tra l'altro, ricordavamo prima, quando è entrato in ora, che io e Giovanni Floris abbiamo una cosa in comune, mi piace una cosa, una persona, un grande maestro in comune. Mi piace citarlo perché io sono entrato qui a Radio 24 e facevo la trasmissione dietro le quinte con Giancarlo Santalmassi, che è il mio maestro, e so che anche tu condividiamo il maestro. Condividiamo, io devo tantissimo a Giancarlo Santalmassi. Quando faceva radio anch'io, prima di venire qui a, sì, fare Viva Voce, mi portava, io ero stagista, e mi portava a fare la parte economica di radio anch'io, e ci ha creduto, insomma, io gli devo tantissimo. È un grandissimo giornalista, certo, lo conoscete qua a Radio 24. Leonardo Manera, tu se vuoi ti presentiamo Giancarlo Santalmassi. E così anche tu. Ma io l'ho conosciuto anch'io, Sant'Almassi, perché io la prima volta venni a Radio 24 a proporre una trasmissione proprio a Giancarlo Sant'Almassi, il quale, essendo lungimirante, la rifiutò. A me non può essere maestro di tutti. Allora, noi siamo quasi in conclusione della prima ora. Ripeto, se volete poi la trovate in libreria, Giovanni Floris con l'Alleanza, Noi e i nostri figli. Beh, il edito da Solferino, in realtà ci hai detto già la proposta che lancia, sì, il servizio civile, ma qual è secondo te la proposta concreta, oltre a questa, per sigillare questa alleanza, che poi se due ci si alleano o tanti si alleano, si, noi dobbiamo tutti, renderci conto, loro debbono ribellarsi, perché un sistema che funziona nell'interesse degli anziani non cambierà per volere degli anziani. Serve una spinta da fuori. Le rivoluzioni partono col coraggio e partono con la ribellione, quindi loro devono diventare una dimensione collettiva che si impone sugli interessi dei più anziani. Bisogna sigillare un patto in cui ci rendiamo conto che un paese così muore, perché un paese che punta solo sugli anziani non fa passi avanti. C'è una grande occasione, c'è il recovery plan, il recovery fund, i soldi che arrivano dall'Europa, a cui abbiamo dato tanto. È il momento adesso per utilizzare questi soldi, sigillare un patto. Mi chiedi un esempio, è la casa. Casa, bisogna, certo, fare in modo che le case siano diciamo, accessibili. Dal punto di vista economico e dal punto di vista fisico. Quindi se devo immaginare su che cosa si gira un patto, sulla casa, per farli uscire di casa. Certo. Ringraziamo davvero Giovanni Floris, l'Alleanza, lo trovate in libreria. Come ci scrive Gigi da Orzinuovi, siete un bel trio. Sì, in effetti, alla fine avete capito, insomma, Giovanni Floris lascia la 7. No, scherzo, martedì non sarà. No, non vorrei che ci credessero alla 7. No, oppure qua dicono condurrà dalle 9 alle 11 e io e Leonardo Manera. Leonardo? No, veniamo in 3 pure Sant'Almassi in 4. Va bene. Grazie Giovanni Floris per essere stato, ciao, con noi. Ciao, grazie l'ospitalità. Finisce la prima ora, ma noi andiamo avanti fino alle 11. Grazie. È l'anno dell'Inter, lo confermi anche tu? Poi... Guarda, io non voglio veramente parlare di squadre minori oggi. Ecco, bravo! Mi piace questa cosa. Bravo, giornale Rai. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Uno, nessuno, 100 Milan. Infatti il problema non è che i giovani vanno fuori, il problema è che nessuno dall'esterno vuol venire in Italia. Io sono fuori dall'Italia dal 2003. Sono un ricercatore all'estero, ma nessuno dei miei colleghi ricercatori vuole venire in Italia. Sì, qualcuno, ma perché è più interessato a venirci in pensione. I giovani, io che faccio l'insegnante di filosofia, il precario di filosofia, non hanno visione, i giovani, perché si è anche pensato di tecnicizzare tutta la scuola e quindi la società, anziché mantenere accanto all'evoluzione tecnologica una prospettiva umanistica, perché prima siamo esseri umani, poi siamo tutto il resto. Scusate ragazzi, volevo dirvi, ma i discorsi dei ragazzi che hanno un linguaggio diverso, che parlano diverso, che si creano un mondo diverso, non vi sembra che sia una cosa che si diceva anche quando io ero giovane? Intendo dire, io sono del 60, sono un sessantenne e mi ricordo che le trasmissioni televisive che guardavo dicevano le stesse cose, magari i comici dell'epoca, che era Aldo Fabrizi, diciamo, diceva le stesse cose. Non è che stiamo ripercorrendo quella strada? Eccoci qui nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000. E vabbè, insomma, scopre l'ascoltatore che da sempre c'è un dibattito generazionale. Era meglio una volta, si stava meglio quando si stava peggio. Il nostro vecchiettino, come si chiama lei? Non gliel'ho mai chiesto. Tullio. Sono il signor Tullio. Signor Tullio. E non ci sono più i giovani di una volta, sono tutti dei maleducati, debociati, drogati. O stanno davanti al telefono o stanno a farsi le canne. Vabbè, signor Tullio, non sono tutti così, ha una visione un po' pessimista. Drogati. Un po' esagerata, un po' tranchant. Invece che conoscere le persone, sta lì davanti tutto il tempo a faccia e bocca. Faccia libro. Faccia libro. Lei lo chiami faccia libro? Faccia lei. Faccia lei il libro. Allora signore, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Oggi vorrei farla tutta così, la seconda ora. Ieri era un po' più abruzzese, è un po' più ostile quella di ieri, è meglio quella di oggi, signor Tullio. Allora, la notizia del giorno è innegabile, non è che ce l'abbiamo adesso, Manera mi dice, quindi ce l'abbiamo ospite. No, è che Trump è risultato positivo al coronavirus insieme a Melania Trump. E tra l'altro leggevo poco fa la CNN, è... ovviamente si prende molto seriamente la questione di salute del presidente in carica, è la situazione di salute, la minaccia di salute più seria da decenni a questa parte per un presidente in carica. Però ancora non si sa se ha sintomi se è asintomatico. Al momento si sa che è positivo. È positivo. Cioè, infatti la CNN dice che è la minaccia incombente più seria da decenni per un nonostante presidente ancora non si sappia se ha sintomi. Eh no, perché evidentemente gli altri precedenti sono degli allarmisti, lo staff di Trump. Ma no, è un dato di fatto, prima Obama, Clinton non avevano avuto, Bush, nessuno aveva avuto dei problemi di salute evidentemente. Una volta Bush aveva detto che stava strozzando con un pretzel, sai, quelli grandi, giganti, che un giorno si era presentato con un livido, ricordo, e avevano detto che si stava strozzando vedendo una partita di football con quei grandi biscottoni salati ed è quasi svenuto picchiando la testa. Vai a sapere poi se sia successo davvero così. Magari la moglie gli ha dato uno schiaffone, non lo so, comunque non importa. Iniziamo con due ascoltatori, signor Tullio. Massimo da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo intervenire riguardo a quanto prima detto dalla signora Fornero. Sì. Alla fine si parla sempre di aumentare l'età pensionabile, di diminuire l'assegno pensionistico e tutte queste cose qua, no? Il che potrebbe essere anche giusto, però non si parla mai che c'è un'evasione in Italia da far spavento, si parla di circa 200 miliardi l'anno. Quindi magari un po' meno, ma se ne magari, parla, magari se anche parla, un po' meno, si parla. Ma se noi riuscissimo solo a recuperare un quarto, un quinto di questa cifra, quante cose potremmo fare? E potremmo anche preservare le future generazioni. Sì, sì, lei dice pagare le tasse tutti per avere un po' più di soldi anche per il welfare. Però non crede che ci sia un cambiamento radicale proprio da fare di approccio culturale? Perché il rischio, secondo molti, è lo Stato incassa di più, lo Stato spende di più. Ma spendere poi per chi? No? Sì, ma investire allora quei soldi sulle generazioni future. Certo, ma andiamo a vedere anche allora le pensioni passate, le pensioni d'oro di cui si è tanto parlato e dopo appunto, però non viene mai fatto nulla. E poi appunto, parliamo magari dell'ultima notizia dello stipendio raddoppiato di sappiamo chi. E questi soldi da dove vengono fuori? Da dove vengono Qua sta mettendo insieme un po' di cose diverse, Massimo. Però quando lei dice le pensioni d'oro, appunto lei supporta questo discorso che non bisognerebbe sbilanciare la spesa sociale e spesa pubblica verso le generazioni di pensionati, ma bisognerebbe ribilanciarla dando l'opportunità alle giovani generazioni di costruirsi una vita che poi, come ci ha detto Floris in conclusione, in maniera concreta, diamo l'accessibilità fisica e economica alla casa. Se un giovane guadagna 800 euro e il mutuo gli costa almeno 700 euro, ma che mangia? Bacche alla fine del mese? Se non c'è la possibilità di fargli comprare una casa, come fa a uscire dalla casa dei genitori per vivere in autonomia? Deve andare fuori i genitori. Ecco, per esempio, questa è la soluzione. C'era un film francese, Sfida Luchetti, il film francese, quello del francese che stava sempre in casa perché erano i genitori. Sì, in casa di riposo. Casa di riposo per come si chiama il film francese? Commedia, Tanguy forse Tanguy, non lo so, forse dico una stupidità. Tanguy, l'ho indovinato prima di Sfida Luchetti. Tanguy, vedi, me l'ha scritto dopo, o l'ha scritto Fusconi, chi è che l'ha scritto? Ma Fusconi dice, ma figurati se io conosco Tanguy. Voglio confortare l'ascoltatore e dirgli che il recupero dell'evasione fiscale è nel programma di tutti i governi, dal dopoguerra ad oggi, quindi prima o poi succederà. Infatti quando ha detto non se ne parla, veramente se ne parla e basta, semmai non lo si fa. Pietro da Modena, eccoci Pietro. Buongiorno. Sì. Beh, guardi, io volevo intervenire velocemente su quello che diceva Floris a proposito degli interventi individuali, cioè dell'approccio individuale dei giovani verso il problema. E non è che mancando un approccio collettivo il problema non si risolve, perché con la somma di tanti interventi virtuosi individuali si può fare anche benissimo, si può risolvere un problema collettivo. Se tutti noi facciamo la raccolta differenziata, mettiamo la plastica al posto giusto, poi viene presa e riciclata, risolviamo il problema della plastica. La plastica non finisce negli oceani, invece di demonizzarla. I comportamenti collettivi virtuosi certamente sono giusti, sono la base della civiltà, della società civile, dei comportamenti civici. Però non è che uno, se mette la differenziata al posto giusto, per questo si risolve il problema globale ambientale. Certamente, come dice lei, i comportamenti singoli aiutano, ma quello che richiamava Floris è una mancanza così di una visione collettiva. Pensare a dire io faccio il mio, la visione che forse manca anche alla politica, sono un po' il riflesso di una visione politica così poco lungimirante. C'è una cosa che mi sconvolge della positività al coronavirus di Donald Trump e di Melania. Attenzione. Che evidentemente hanno ancora un'intimità. Io speravo. Che era la stessa considerazione che facevamo prima di andare in onda anche noi in redazione. Oppure il maligno dice c'è anche forse positiva una trentenne collaboratrice di Trump. Forse hanno entrambi un'intimità con la trentenne. Vabbè, ma no, non spingiamoci oltre. Io voglio scrivere a Melania Trump, deciso così. Sì. Sì. Secondo me c'è una mail ufficiale. Sfida Luchetti, me la trovi? Le voglio chiedere se viene a trovarmi in Piazza Udine. Melania.Trump @ Dico, hi Melania, would you come here in Italy, in Piazza Udine? .gov. Poi va a Udine, non capisce va a Udine. E come si dice? Tutti Melania Trump a Udine, mistero sulla visita. No. Udine Square. Would you come here in Udine Square? In Milano, tu dici in Milano. Udine Square. Udine Square, sì. Va bene. If you are sad or about COVID. Scusa, non può venire adesso, peraltro, dovrà stare in quarantena. After quarantine. Would you come to Italy, please? Square Udine from me. In Milano, to me. Mm-hmm. To me. Verrà sicuro, è fatta. Traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Only love can make it rain. Nessuno pensa che non sia vero il fatto che Trump sia positivo. Secondo me è una balla. Vuole evitare i confronti con Biden. È uscito perdente dal confronto con Biden, è venuto fuori il vero Trump, un buffone che aggredisce gli altri per non fargli parlare. Quindi lui ha paura dei confronti con Biden e quindi si è inventato la storia del coronavirus che è positivo. Secondo me è questo. Leonardo, ti stanno piano piano rimpiazzando. Attento. Lo so, ma io non sono un poltronista, io non sono attaccato alle poltrone, quindi andrei via da qui, come ho fatto altre volte in altre situazioni, senza rimpiangere, troverei un'altra occupazione. C'è sempre il bar Jimmy che mi ha proposto di andare a lavorare lì. Ogni volta il signor Jimmy mi propone di rilevare il bar. Perché lui è un po' stanco, non ha più voglia di andare tutti i giorni e dice: perché non lo prendi tu? Lo chiami così con l'insegna Amaro Manera. Resta solo bar con i neon fuori che si vedono senza che siano coperti da una qualsiasi insegna. E potrei terminare, diciamo, il mio lavoro lì, rilevando il bar Jimmy, con poche cose da offrire anche. Vabbè, vedi che i complottisti, ma ne parlavamo giusto durante il traffico, tutti pensano o penseranno: ma è davvero positivo Trump o è una strategia? Dai, non lo so, cioè, tanto voglio ma dire... Ma no, mi sembrerebbe troppo grossa. Io non... Peraltro la collaboratrice di Trump, 31enne, dicono a Casa Bianca, non solo è positiva, ha i sintomi e sta male. Questa è la nota dall'ABC che ha raccolto informazioni da dentro la Casa Bianca. Non so cosa dire, se questa è una strategia per saltare. No, pare che tra l'altro li accompagnasse sempre lei, sì. Sia lui che Melania. Ma poi guardate che la salute dei presidenti è un tema molto delicato in America, eh? Quindi dire di essere in difficoltà dal punto di vista della salute rischia di fargli perdere anche un po' di punti, quindi boh, perché vedrebbero un presidente che non è più in grado eventualmente poi bisogna vedere se appunto sarà sintomatico o meno. In ogni caso va bene, oggi lo chiamo e ti saprò dire. Cioè, ci ha dato Sfida Luchetti l'indirizzo della Casa Bianca, cioè 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, capito? Ma mica gli vuole scrivere una lettera, porca miseria, gli vorrà scrivere una mail. C'era una mail istituzionale di Melania Trump? Niente, Sfida Luchetti non la trova. Sarà Melania @ whitehouse.gov, non lo so. Allora io ho deciso di scriverle veramente Trump. Sì, poi sì, vi terrò aggiornati e informati sulla risposta che inevitabilmente riceverò. Però la mail, ci vorrebbe la mail. Va bene. Anzi, sai cosa possiamo fare? Posso scrivere ogni settimana a un potente della Terra. Prima o poi qualcuno ti risponde, dai. E vedere le varie risposte che arrivano, perché secondo me bene o male hanno qualcuno che risponde. Sì, Melania mi risponderà lei personalmente. Allora, signori, c'è il grande tema nelle città italiane della mobilità. La nuova Italia, qualcuno dice, deve essere sostenibile, e sicuramente deve essere più sostenibile, anche la modalità di muoversi nelle città. Per questo sono comparse ciclabili, biciclette, monopattini, con tanto di anche critiche, accuse. Saluto Matteo Colleoni, torna con noi, insegna politiche urbane e coordinatore dei mobility manager all'Università Milano Bicocca. Buongiorno Colleoni. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E Giordano Biserni torna con noi, ha fondato anche all'interno dell'Associazione Amici di Polizia Stradale l'osservatorio Monopattini, avete fondato. pronto, eccoci Biserni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno. Detto che con Leoni questa è la nuova sfida, la vogliamo affrontare, vincere o vogliamo fare all'italiana tutti contro tutti con Leoni? Sì, beh, speriamo che non sia ancora l'italiana contro tutti contro tutti. Devo dire che tra modi di trasporto c'è sempre stata una competizione, non soltanto adesso, una competizione storica. Pensate che quando nascono i pedoni non sono mai esistiti nella storia, i pedoni sono nati perché sono nate le automobili e le automobili hanno messo le persone che camminano sui marciapiedi, hanno creato i pedoni. Chiaramente c'è sempre stata una competizione storica tra i modi di trasporto e questa dei monopattini è l'ultima. Sì. Però cosa ne pensa lei? Le nostre città sono attrezzate penso a Milano, per esempio, vivo a Milano come maniera, sono attrezzate ad accogliere un nuovo tipo di mobilità diffusa più su biciclette, monopattini? Ma guardate, il monopattino è equiparato alla bicicletta, anche dal punto di vista normativo, dallo scorso marzo, e quindi nei momenti in cui le nostre città sono fatte pronte per accogliere le biciclette, lo sono anche per il monopattino. Quindi c'è da chiedersi però più in generale quali città e se le nostre città sono pronte per accogliere questo tipo di mezzi. Mm-hmm. E diciamo che la risposta è dipende dalla città e parzialmente. In quanto ancora oggi vanno messe su piste ciclabili, non parlo di Milano. Ma qual è il problema delle nostre città? Strade strette e troppe macchine? Ma allora, la nostra città storica era pensata come città per essere camminata e quindi le strade sono strette perché le città sono di origine in buona parte medievale e quindi con centri storici piccoli, con strade strette. La città industriale ha poi fatto nascere le strade larghe. Ma strade larghe per essere percorse con le automobili, di lungo adesso vanno quindi almeno su queste strade larghe va ridimensionata la posizione e lo spazio dell'automobile a vantaggio dello spazio delle biciclette. Tra l'altro negli ultimi anni le dimensioni delle automobili sono diventate maggiori, si sono allargate, c'è sempre anche meno questo. Spazio. E anche, il comportamento degli automobilisti, Giordano Biserni, è un po' come al solito, è peggiorato. Voi tenete anche conto di incidenti che coinvolgono nuove forme di mobilità, Biserni? Ma guardi, noi abbiamo 23 osservatori, lei pensi che abbiamo anche un osservatorio sugli incidenti che riguardano l'investimento di animali? Ieri c'è stato un caso clamoroso, gravissimo, con due vittime. Ma mi lasci dire, su questo argomento vorrei essere ben preciso, è chiaro che siamo di fronte a uno strumento di mobilità che ha assunto la dignità proprio di veicolo il marzo scorso, che è moderno, non inquinante, abbastanza veloce, secondo alcuni anche troppo. È vero, come diceva prima l'assessore, che nel XIX secolo l'automobile era vista come un oggetto pericoloso rispetto alle carrozze con i cavalli, che non avrebbe avuto nessun futuro, poi abbiamo visto come è andata a finire. Il problema non è solo a questo momento dell'adeguatezza delle città, è l'inadeguatezza delle teste dei conducenti anche, noi siamo un punto di riferimento nazionale, se arrivano video da tutte le parti, concetti espressi da colleghi che stanno sulla strada, colleghi, ex colleghi per quello che mi riguarda, c'è gente che va in autostrada, gente che va 80-90 all'ora sulle statali, gente che prende la Rimini fino a Cesena alla 14, gente che va sulla A24, allora qua bisogna fissare dei parametri precisi, nelle città, marciapiedi, io ho visto quest'estate, eravamo nel cuore del problema, ho visto quasi nessuno col casco, probabilmente sono tutti sopra i 18 anni, a me sembrava ne avessero 12 guardandoli così, però nessuno col casco, in due, in tre, famigliole. Allora qui se non poniamo delle regole, la strada diventa una giungla incredibile nella quale Tarzan è sempre più assente. Quindi le divise, parlo ovviamente delle polizie locali innanzitutto, devono cominciare a ripristinare dei concetti. Noi non abbiamo ancora vinto, Milano, alcune battaglie che si chiamano telefonino alla guida, cinture di sicurezza posteriori, spesso anche l'alcol. Ora, dobbiamo essere ben attenti perché altrimenti il fatturato della sinistrosità e della mortalità può anche aumentare. Sì, devo dire, c'è chi fa notare il problema è la velocità del monopattino, come ha detto Biserni, scrive un ascoltatore. Però è anche vero che magari il monopattino va veloce. Però se tutti rispettassero i 50 all'ora in città e non facessero sbalzi di corsia, girare senza mettere la freccia all'improvviso, cioè se ci fosse tutto un rispetto delle regole ci sarebbero anche meno incidenti. Questo bisogna. Le donne pedonali devono andare a 6 all'ora, 25 all'ora sono abbastanza. Certo, ci sono dei monopattini che escono già che vanno 80-90 all'ora. Voglio dire, se guardiamo le velocità, la Ferrari S che fa i 320 all'ora. Questo non significa mica che debba andare che a 320. No? Quindi, se va, allora, mettiamo dei puntini chiari. Ci sono dei limiti, ma fatti rispettare. Questo è un veicolo che ha dei limiti propri, oltre quelli urbani. Vanno fatti rispettare. Inventiamoci anche un autovelox per monopattini, e caro amico, se tu viaggi in un'area urbana a 30-35 all'ora te lo stoppo, ti fermo e ti appoggi un attimino a destra. Però ripeto, servo di nuovo l'arbitro sulla strada che sì, sì, perché altrimenti senza regole qua cominciamo a prendere a casa. No, ma io sono di questa idea, più multe è inutile, cioè quando si inizierà a stroncare il fenomeno con delle multe salate, quello col telefonino eccetera, certo ci sarà poi quello che si lamenta e dice ma perché io il primo a essere beccato e ti è andata di sfiga, non so come dire, cominciamo da chi ha sbagliato, poi andremo agli altri. Per concludere, professor Colleoni, quanto bisognerebbe investire? C'è una cifra nella quale si può dire su che investimenti sono necessari per rendere più fruibili per la mobilità le nostre grandi città? E ci sono poi questi soldi? Da dove si prendono? Ma più che una cifra, bene, innanzitutto c'è un obiettivo, quello di migliorare il riparto modale. Il riparto modale che c'è adesso in Italia non va bene, non possiamo andare avanti in questo modo. Il riparto modale oggi è 70% di mobilità veicolare privata, 20% di mobilità attiva, 10% pubblica. Non va bene. Quindi aumentare la pubblica, almeno ad un equilibrio, come dice la Comunità Europea, nel libro verde 30-30-30, quindi aumentare quella veicolare privata, aumentare radicalmente quella pubblica e anche leggermente quella della mobilità attiva. Questo è l'obiettivo, e quindi proporzionare gli investimenti di spesa rispetto al raggiungimento di questo obiettivo. È possibile farlo, bisogna soltanto volerlo. Certo. Grazie professor Matteo Colleoni, che insegna politiche urbane, coordinatore dei mobility manager alla Bicocca, e Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici Polizia. Forse Stradale. Oltre a reprimere, che è sempre la prima cosa, sì, forse anche fare delle campagne di informazione sui reprimere, danni. Multe, invece che reprimere, multe, come dite multe, voi, multe, invece multe, che reprimere e basta, ecco, dare anche visibilità. Ma tu vai nel traffico, scusa, ma le vedi i comportamenti? Sì, io li vedo, ma dico che oltre a reprimere, sì, magari anche fare delle campagne di informazione, certo, sui danni, certo, derivanti, e non solo piazzare autovelox ogni 50 metri, no, dove ti trovi di colpo da 70 all'ora al limite di 30. Ci sono sugli incidenti stradali, ma ce ne sono molto poche. Pensa a tutta la campagna, no, se per esempio sugli incidenti stradali si facesse la stessa campagna che viene fatta ipoteticamente sul coronavirus, forse ci sarebbero anche meno incidenti. Quindi non solo reprimere. Il negazionista non viene sempre. Metti Mauro Meazza a reprimere. Mauro Meazza era lì ieri che tifava Rio Ave, aveva i colori bianco-verdi perché ci voleva fuori dall'Europa, questo gufo. Ma tranquillo, hai sentito prima Floris che gli ho detto, è vero che l'anno dell'Inter, e Floris ha detto non parlo di squadre minori. Ci ha lasciato così, Giovanni Floris, grande, va bene, capito Meazza? Borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ma che bravi che siete. Tour da attaccare, 5 stelle, ve le inventate tutte. Navigator che trovano lavoro, ma quale lavoro se il lavoro non c'è? Ci può mettere anche i marziani, ma il lavoro non c'è. È come levare l'acqua dal mare e poi dire fai il bagno. Ma cosa mi venite a raccontare? Siate seri. Occhio Manera, che se scrivi a Putin rischi una lettera di risposta all'antrace. Manera, c'è mie la Melania sa fai pulizie? Le provo, glielo proporrò, guarda, mi hai dato un'ottima idea, le scrivo per proporle di venire a casa mia ad aiutarmi nei lavori domestici. Sì, tra l'altro li posso fare anch'io insieme a lei, collaboriamo. Ma non è che gli amici dei 5 Stelle hanno sempre un po' di sindrome da accerchiamento, che qualsiasi cosa si dica loro si sentono subito... Ma tra l'altro oggi dei 5 Stelle non no, crede. Io prima ho detto mentre facevo il pezzo del Navigator, sì. Ma non è certo, sempre, no, sembra sempre sindrome da accerchiamento. Tu sei un nemico acclarato dei 5 Stelle. Nonostante io li abbia anche votati nel 2013. Allora, pare che la mail sia questa, first, adesso non affannatevi tutti che a scrivere, segno. Che prima deve scrivere Manera, first punto lady @whitehouse.gov. Questo però l'aveva istituito Hillary Clinton, dice. Non è che poi SMS. Mi arriva la non è che poi non mi arriva so Hillary Clinton. No. Prima Melania, no. Mi arriva no, Hillary Clinton c'è un a form, collaborare un form con me sul sito della Casa Bianca a whitehouse.gov/contact. Tu vai lì, c'è un form e lo compili per scrivere a Melania Trump. Va bene. Allora, però tu qualche giorno fa ci hai parlato di una storia che mi ci ha molto incuriosito, mitica, del mago Magicus. Gianmauro Anchisi, in arte esatto. Mago Magicus. Giovanni Anchisi. Come si chiama il nostro Anchisi? Perché io ho scritto sulla scaletta Giovanni. Dottor Anchisi, buongiorno. Buongiorno. Come si chiama di nome intanto? In tutti e due i modi è giusto. Beh, è meravigliosa questa cosa. La mia vita è già iniziata così, come un mistero. C'è Manera che guarda il vuoto, io l'ho chiamato Io ho sempre saputo Gianmauro, sì. No, perché anch'io fino in terza media ero convinto di chiamarmi Gianmauro. Ma è meraviglioso. Perché io quando invece mi capita di andare, cambio città, vado in terza media in una nuova scuola, fanno l'appello, dicono Gianmauro, io faccio presente, fanno no, non sei tu, come non sei tu? Per caso c'era un altro Gianmauro in quella classe e lì ho scoperto che io mi chiamavo Giovanni. Ma questa cosa è, cioè, no, ma in che senso hai scoperto? Perché sulla carta d'identità? Perché, cioè... No, perché prima fino a 13 anni io non lo sapevo, perché il mio nome era, poi ho scoperto dopo, era Giovanni Mauro. In famiglia e dappertutto, ma anche a scuola, la cosa incredibile è quello, mi chiamavano Gianmauro. Io l'appello l'ho sempre fatto fino in seconda media, che abitavo in altri posti, prima di venire a Novara ero segnato come Gianmauro. Ma come sei io che sulla carta in tasca sono Leonardo Antonio, se mi chiamassero Leotonio. Leotonio. E quindi, infatti... Poi, Giovanni Mauro. Adesso invece sono solo Giovanni, perché al matrimonio il comune ha sbagliato e ci fa guardi, abbiamo sbagliato a fare i documenti, se volete mantenere il Mauro dobbiamo rimandare di un mese tutte le certificazioni. Beh, e ovviamente ho detto eliminiamo un nome, così è tutto più comodo. Quindi adesso è Giovanni ufficialmente Giovanni. Allora ci ha raccontato però Manera di questa storia da mago magicus a medico, nel senso che hai deciso di portare avanti gli studi, ecco. Piccolo il mio sogno era fare il medico, invece poi mi sono trovato a fare l'artista, il mago, ho iniziato a fare un po', mi piaceva recitare, ho fatto recitazione, danza, mimo e poi alla fine tra tutte le cose dove mi riusciva meglio era fare il mago, perché un mago che sapeva fare un po' le altre arti all'epoca, 40 anni fa, non ce n'erano, e quindi ero vantaggiato su altri. Ma a che età hai coronato questo sogno del medico evidentemente? L'ho coronata alla fine, quando ho deciso di riprendere e terminare, mi ero riproposto di regalarmelo per i 60 anni. E per un mese ce l'ho fatta, no, per un paio di mesi ce l'ho fatta, perché quest'anno io compivo ad agosto 61 anni, ma mi sono laureato a giugno, a fine giugno, quindi con i 60 anni come mi ero ripromesso. E adesso hai iniziato a lavorare anche come medico, se non sbaglio. Sì, da subito, da appena laureato, appena ho ricevuto il tesserino dell'ordine, ho subito... Chissà le battute, dai, lei che è un mago, mi dica che cos'ho. No, sì, è vero. Me le facevano prima, adesso mi chiedono solo di curarli. Ma nel frattempo continui anche a fare spettacoli, però. Quello ho ridotto molto, perché tra l'altro sono responsabile sanitario in una struttura, in una RSA, quindi avere contatti esterni in situazioni un po' non è molto precarie per ora tendo di evitare, no? Insomma, qui bisogna capire se è meglio la prima vita da mago o quella appena cominciata da medico. Sono due diverse. La vita da mago infatti era... era la mia parte bambina. Infatti quando mi sono laureato ho detto: mi sa che Peter Pan mi sta morendo o mi è morto. A 60 anni, a 60 anni devo dire che infatti, prima o poi. Però mi sento ancora giovane, non sono un neurolaureato. Insomma, questo è tutto per accertare che quella storia che ci ha raccontato Leonardo Manera era vera. Ha solo mentito sul nome, ecco, non è Gianmauro. No, neanche lì non ha mentito, perché è l'illusione della mia vita, cioè io vivo di illusioni, ho sempre vissuto, esatto, di illusioni, e anche il nome faceva parte di quello. Noi abbiamo fatto una quantità di serate insieme, fine anni 80, primi anni 90, dove andavamo nelle discoteche. Com'era come Mago Manera? Com'era come Mago? Molto, molto bravo, e poi vabbè, sempre stato simpaticissimo e anche attento agli altri, insomma, di quelli corretti e poi bravo, sì, è sempre stato bravo. Io, tra l'altro, in realtà io lui l'avevo conosciuto prima, ci eravamo incontrati una volta in un provino per una trasmissione televisiva di Raffaella Casà, prima di poi iniziare a lavorare assieme, non mi ricordo ancora. Stupendo. Il Mago Magicus, da mago a medico. A proposito del nome, il mio nome è nato lavorando nelle discoteche con Manera, perché facevamo anche delle feste a tema, festa romana, e quindi il nome di un mago romano non poteva essere Magicus. Sì, che era il mio nome goliardico di quando goliardia. Eravamo vestiti tutti con le tuniche romane. Poi facevamo Goodbye Mississippi, ti ricordi? C'era Goodbye Mississippi, SPQR, Ghiaccio Bollente, il giallo con Delitto, tutte queste serate dove andavamo insieme. Mamma mia, che tempi, ragazzi! Che tempi, quanti viaggi e chilometri ci siamo macinati. Caro dottor Anchisi, a questo punto, Mago Magicus, grazie. Dottor Magicus. Grazie per aver raccontato con noi questa storia vera, vera, che ci ha detto Leonardo Manera. Dobbiamo andare al traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Avuto informazioni riservate dalla Casa Bianca. Pare che abbiano fatto il tampone a Trump nel momento in cui lo hanno sentito elogiare Xi Jinping. Si sono preoccupati. Maria da Milano, ce la facciamo in pochi secondi, Maria, mi farebbe piacere sentirla, prego. Salve Milan, salve Leonardo, sono un pedone, ho sempre camminato molto volentieri. Milan, divento pazza quando cammino sui marciapiedi. Perché le sfrecciano, da tutte le parti le biciclette. Se mi sposto di 10 centimetri devo guardare dietro, sembro una pazza io. A volte... un chilometro e mezzo da casa mia verso il centro, 20 biciclette. Non si vada con... si sente anche male il cellulare. Metta gli specchietti retrovisori alla borsetta, non lo so. Faccia dell'ironia. No, questa è pura ideologia quella che stanno facendo. Vada a vedere cosa hanno fatto in corso di Buenos Aires. In Viale Puglia, nel pezzo tra il Corvetto e Piazza Gilberto. Maria, per però l'ironia non è irrispettosa. Beh, sei stato un po' irrispettoso alla signora. L'hai presa in giro, lei ha manifestato un problema e tu l'hai derisa. Non la prendo Dovete in vedere giro. La faccia, tra l'altro, la che faceva. In giro. Non l'ho presa in giro. Era un tocco ironico per un problema che c'è effettivamente a Milano, marciapiedi stretti, Maria, biciclette. Mi dispiace, veramente non si è comportato bene. Allora è con noi tornato Elenio Maria. Ottì la sardina. Peccato, perché veramente Maria si è sentita un po' presa in giro. Maria, le do tutta la mia solidarietà, perché grazie. Alessandro Milan non si è comportato bene nei suoi confronti, e io sono dalla sua parte, perché ci sono tutte queste vie di Milano in cui effettivamente diventa un problema essere dei pedoni, come quale anch'io sono, perché spesso mi ritrovo con delle problematiche analoghe alla sua. Quindi allora, Maria, spero di poter condividere con lei e di approfondire Mariotti, questo tema nel c'è? Quale mi riconosco. Avete fatto salire, e penso che sia anche un problema salire. Molto pregnante. Diciamo. Quindi Maria, spero di poterla conoscere al più presto, magari bevendo insieme una tazza di tè, e poter parlare delle vessazioni alle quali siamo sottoposti noi pedoni nelle città. Grazie Maria, e mi scuso per il comportamento sgradevole qui del mio collega. Elenio Mariotti, buongiorno. Maria, veramente dispiace perché quando fa è così, brutto telefonare io... per manifestare un problema e sentirsi presi in giro dal conduttore. Insomma, il conduttore dovrebbe essere empatico. Il conduttore dovrebbe essere empatico con le persone che ci danno da vivere, peraltro, perché noi io possiamo sopravvivere e avere uno stipendio solo grazie a voi che ci ascoltate. Io... persone come Maria, persone che basta sentire la voce per capire Maria, che sono persone di buon gusto, persone educate e delicate. Arriva, manifesta un problema e arriva l'ironia stucchevole di Alessandro Milan. Sono talmente dalla parte di Maria che sai come mi chiamo io? Ti faccio vedere la carta d'identità, Alessandro Maria. E qui cerchiamo la captatio benevolenza, no, no, benevolenza in zona Cesarini, quando ormai il danno è fatto, perché quando ma il danno è fatto danno? È difficile rimediare. Abbiamo perso un ascoltatore, ma io condivido anche il sentire, il sentiment di questa ascoltatrice, che probabilmente cambierà radio, andrà ad ascoltare anche lei Radio Bella e Monella. È riuscito nel suo intento, Leonardo Manera. Io prenderei un altro telefono. Di fare non entrare in studio oggi la sardina Elenio Mariotti. Ho come il sospetto che invece lunedì ci sarà la sardina che verrà a trovarci. Questo così. Può essere, questo può essere. Ho come un sospetto, così la butto lì, mi gioco questi due urini. No, il mio era veramente un sentimento di vicinanza nei confronti di afflato umano emotivo. Possiamo richiamare Maria? Verso Maria. Richiamiamo Maria e le facciamo le doverose scuse. Sì, io chiedo scusa se la mia ironia è apparsa un po' nei confronti di sgradevole, Maria. Sgradevole, stucchevole. Però vorrei sapere da Maria se ora luogo. Si sente più presa in giro da me o da Leonardo Manera. Abbiamo due minuti per scoprirlo. Cara Maria, adesso la stiamo richiamando, ha esposto il problema dei pedoni che si vedono sfrecciare a destra e a manca, a destra e a sinistra, e su e giù, biciclette, monopattini, e io ho sorriso dicendo si metta uno specchietto retrovisore. Maria, buongiorno, eccoci qua, l'abbiamo recuperata. Maria, mi dispiace, io sono solidale con lei prima di tutto, voglio dirle Maria, questa cosa. Fai, vediamo, Maria. Due parole. Sì. Vi ascolterò sempre. Leo, ti voglio bene. Oh, Milan, c'hai il pungiglione delle vespe. Io? Ce l'hai ogni tanto. C'hai il pungiglione delle vespe. Ma Maria, ma dove abita che venga a bermi un caffè? Ma non è adesso vero. Cerca di rimediare, ma l'ho detto, il danno è fatto ormai, non si può ma più rimediare. Ma in che zona abita? In che zona? Ripamonti, venga a vedere che casino la mattina sui marciapiedi. Ripamonti, sì, Ripamonti effettivamente è un po' stretto il marciapiede, via Ripamonti. Dipende poi a che altezza di Ripamonti, dove sta molto più verso stretto. Via poi passa il tram in via Ripamonti, quindi. Ma dove abita? In una di quelle case belle della Milano antica? No. In un quartiere che però ha tanto verde, è all'interno della Ripamonti all'altezza del 200 e io ci vivo bene. Stupendo. Allora, secondo me il suo parroco è il mio ex parroco Don Davide. Guarda, le dirò questo, non so, magari lei non va in chiesa, anch'io non è che frequento, ma se all'interno non lo conosce il parroco, il Don Davide. No, Milan, c'è stato solo un parroco che ha abbattuto tanti di quegli alberi, per cui lasciamo perdere. Mandava lui con la motosega. Non è Don Davide sicuramente, allora non credo che Don Davide. Grazie Maria. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Comunque io il suggerimento di mettere lo specchietto retrovisore sulla borsetta non è una cosa... Sai che ci sono tipo gli ombrelli che si tengono sulla testa col cerchietto, così potrebbero fare dei cerchietti. In giro Maria. No, io invece sono solidale con Maria. In giro Maria. No. Anzi, sono l'unico che ti ha permesso di redimerti nei confronti di Maria e di porre le doverose scuse nei confronti di questa signora. Tra l'altro abbiamo una palletta di carta che gli ho non a Maria, ma a Leonardo. È un peccato. Ho pallettato di carta e gli ho sparato. È un peccato perché non sono riuscito a fare il pezzo e ci avrei tenuto. Cioè, guarda, ci tenevi moltissimo. Questo tuo comportamento mi ha obbligato a prendere le difese di questa signora per bene che è stata dileggiata da te. Adoro Maria e ci troviamo lunedì alle 9. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.